Benvenuti negli studi di Radio 24 al Salone Nautico di Genova, ospiti di Fineco Leasing e Locat Leasing per questo nuovo appuntamento con Dialoghi sul Mare. In studio qui con noi abbiamo il comandante Luca Anconelli dell'Accademia Navale di Livorno. Buongiorno Luca. Buongiorno a tutti. Bene, come ti sembra questo Salone Nautico? Hai avuto la possibilità di renderti conto dell'atmosfera un pochino diversa? Beh sì, è una bellissima giornata, il salone è pieno di gente, è pieno di bellissime barche, forse qualcosina di più dell'anno scorso. E oggi è anche stato colorato da parecchi cadetti e ufficiali di marina che andavano in giro, quindi è stato molto bello vederlo. Sì, proprio per questo so che avete presentato in sala stampa il vostro trofeo dell'Accademia, è un'iniziativa molto importante, ce ne vuoi parlare un po', raccontarci di cosa si tratta? Certo, quest'anno il trofeo è alla sua 25esima edizione, è il trofeo dell'Accademia Navale e Città di Livorno, è un trofeo velico, è sicuramente la regata velica internazionale più importante del Mediterraneo. Dico internazionale perché l'anno scorso hanno partecipato 25 nazioni differenti, quindi marine straniere e paesi stranieri, equipaggi di varie parti del mondo, con 13 classi regata differenti distribuiti su tantissimi campi e con eventi collaterali continui. C'è un villaggio della vela aperto a terra al Porto Medicea a Livorno che ospita ogni giorno intrattenimenti, eventi particolari, eventi culturali. È veramente una manifestazione molto importante, è molto bella perché è colorata, poi insomma è un connubio città di Livorno. L'Accademia Navale ormai va avanti da 25 anni, quindi quest'anno festeggia le nozze d'argento. Insomma. Sì, dicevi, un connubio molto felice, anche perché questa iniziativa si rivolge in particolare alle giovani generazioni, perché è un sogno piccolo che diventa grande. Ci racconti come è nata anche questa idea di identificare con questa frase la vostra iniziativa? Sì, grazie. Questa mattina ho fatto la conferenza stampa e mi ricordo quando ero piccolo che andavo a spiaggia e vedevo il mare e navigavo con la fantasia, cioè andavo in posti più lontani. E per rappresentare questo abbiamo pensato alla barchetta di carta, che è appunto un gioco da piccoli. Un gioco da piccoli che diventando più grandi portano fino al 25esimo trofeo, quindi a barche effettivamente molto grandi che regatano seriamente e fanno manifestazioni importanti. E per questo l'abbiamo chiamato appunto un gioco da grandi. Questo è il payoff di quest'anno con questa barchetta di carta che naviga non solo con la fantasia ma anche effettivamente durante le regate internazionali del trofeo. Sì, pensi che sia importante rivolgersi in particolare alle giovani generazioni, quindi coinvolgere i giovani all'amore per il mare e tirarli dentro proprio in questo gioco? Beh, è molto importante, insomma, poi c'è anche conflitto di interesse, essendo ufficiale di marina, insomma, è normale, e facendo formazione come primo incarico è effettivamente molto importante. E i giovani si affacciano molto volentieri a questo ambiente marinaresco, diciamo. Infatti, se pensi che la classe di regata che ha più regatanti in assoluto è la classe Optimist, che sono la classe proprio dei bambini, che l'anno scorso aveva 250 regatanti piccolissimi che vanno dai 7 agli 11 anni. Secondo te cosa li affascina? Perché si accostano così volentieri al mare? Beh, il mare ha un fascino particolare, oltre ad essere uno sport molto sano, è uno sport fatto anche di energia pulita, insomma, il vento. Quindi quando uno è in mezzo al mare impara tante cose, impara a relazionarsi col mare stesso, che è pieno di insidie, non è mai facile gestirlo, impara a essere responsabile, anche a fare una manovra con un vento al contrario, insomma, penso che cresca molto in fretta un bambino che ha a che fare col mare sin da piccolo. Parlavamo di giovani generazioni e in effetti oggi tra di voi ho visto molti giovani, sono i vostri cadetti, saranno stati bimbi innamorati del mare. Adesso sono diventati grandi e hanno deciso di intraprendere una carriera presso l'Accademia Navale di Livorno. Come si accede? Allora, l'Accademia Navale di Livorno si accede tramite concorso. Parlo per esperienza personale perché ho seguito il concorso l'anno scorso seguendo la selezione, quindi c'erano orientativamente 3.500 domande per posti che andavano dai 150 ai 170, quindi la selezione in fase concorsuale è molto sostanziosa e soprattutto il concorso è diviso in fasi, ogni fase è sbarrante, quindi si ha accesso alla fase successiva. Sono tutti studenti, bisogna essere diplomato ovviamente, ma non tutti vengono dalle scuole direttamente, possono anche esserci allievi o ragazzi che vengono dalle università, perlomeno per i primi 2 o 3 anni. Il limite di età per gli uomini è di 23 anni e per le ragazze di 21. sono prove molto difficili da superare e da imbroccare alla prima, ovvero ci sono molte persone che anche ritentano il test. Sì, è verissimo, molte persone ritentano e molte persone rifalliscono purtroppo, ahimè, ma non sono prove difficili, sono prove abbastanza facili, però la selezione avviene anche per chi le fa meglio, quindi magari c'è chi le fa meglio di altri, quindi ha più agevolazioni nel poter entrare o meno. Hanno una corsia preferenziale gli studenti che vengono da istituto nautico o da scuole che preparano proprio in maniera specifica questa carriera, oppure secondo te va bene qualunque tipo di scuola? Gli unici ad avere una corsia preferenziale sono quelli che hanno fatto scuole militari, quindi le varie scuole navali, il Francesco Morosini, oppure le scuole militari dell'esercito che sono l'Atelier e l'Annunziatella, sono effettivamente gli istituti che danno una corsia preferenziale. Per l'istituto tecnico nautico o i licei non c'è una corsia preferenziale. Ovviamente chi ha fatto il nautico, una volta che è entrato in accademia o in marina, conosce già alcune problematiche, alcune materie che studierà. Però in fase concorsuale il test sono di italiano e matematica, quindi un buon liceo sicuramente prepara un futuro allievo a superare il concorso in maniera adeguata. Allora, la domanda mi viene spontanea ascoltando la sua risposta. Ci sono ancora molti ragazzi che vogliono fare i marinai, sia nel settore civile sia nel settore militare. Secondo te sono ancora tante nelle domande ed è ancora alto l'interesse verso questo tipo di carriera? Beh, è alto perché insomma, l'Italia è circondata dal Mar Mediterraneo e ha tutto mare intorno. La costa italiana è una costa importantissima e quindi molti dei giovani vivono sulla costa e quindi vedono tutti i giorni navi che entrano e escono dai porti. E la passione per il mare c'è, penso rimarrà sempre nell'Italia. Ci sono tantissime domande in marina, molte domande anche per il campo civile, per andare a lavorare su unità mercantili, però per quello che riguarda il mio settore in marina le domande sono tante, quindi penso che la passione per il mare non sia mai scesa. Però il dubbio che mi viene è che i ragazzi di oggi abbiano un pochino più di resistenza verso una vita di sacrifici che li costringe anche a stare lontani da casa. Sì, questo è vero perché ora il giovane d'oggi penso che tenda a essere meno rispettoso delle regole e a sopportare il sacrificio effettivamente in maniera minore, però è a mio avviso molto intelligente, forse più intelligente di un po' di anni fa, grazie anche alla tecnologia o altri aspetti che sono subentrati, e quindi si rende conto dell'ambiente in cui vive e lo metabolizza molto prima che un tempo fa, quindi pro e contro. Quindi tra i contro cosa c'è secondo te? Tra i contro c'è un livello culturale inferiore, penso, dovuto probabilmente alla scuola che forse è scesa un po' di livello, a internet che diciamo ha avvicinato molto i ragazzi al mondo multimediale ma poco a quello effettivo, quello reale, cioè lontano un po' da quello reale, forse una capacità inferiore di comunicare, insomma penso che comunicare oggi forse anche più di ieri sia uno dei parametri più importanti per una, non solo per un ufficiale di marina, per un giovane di oggi, no? Tutti comunicano e lo devono fare, e penso che stando a casa davanti a una PlayStation o davanti al televisore non si comunica un granché. E invece tra i pro cosa ci mettiamo? Tra i pro l'intelligenza, l'ho detto prima, io penso che l'aspetto tecnologico abbia sicuramente incrementato il quoziente intellettivo dei giovani e abbia anche portato loro a avere più manualità nelle cose tecniche, questo sicuramente li facilita nello studio e li facilita nell'apprendimento di molti concetti, e questo forse tende un po' a impigrire anche, però insomma è un pro sicuramente. Certo, quali sono le caratteristiche necessarie per intraprendere la carriera presso l'Accademia Navale di Livorno? Ma fondamentalmente sono la passione, la determinazione e la convinzione di fare la scelta giusta. Non ci sono caratteristiche fisiche, ovviamente uno deve stare bene, deve essere sano, deve essere di una buona costituzione, non deve aver avuto patologie particolari nel corso della vita, però sicuramente deve essere spinto da una forte passione verso questo ambiente, perché è un ambiente molto sacrificante, una vita molto dura e non è per tutti.